la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Grazie per ascoltarci e scaricarci in podcast da Oscar Giannino. In questo venerdì 27 di giugno, sono le 16:37 minuti. Siamo al solito in ritardo, non per colpa nostra. Allora, l'argomento del giorno: chiamate 800 24 00 24, 349 238 6666 per i messaggi. Torniamo su un classico di questi 7 anni di crisi, un classico, cioè Italia e Germania, per così dire, visto che, come avete sentito la breaking news, si avvia verso il termine il Consiglio europeo, il primo che c'è stato dopo le elezioni europee che si sta tenendo a Ypres, una località praticamente distrutta nella prima guerra mondiale. E in questo primo Consiglio europeo, dopo le elezioni europee, tutti i giornali italiani vi hanno bombardato su questo nuovo round, presentato come decisivo addirittura, del confronto tra i cattivi rigoristi tedeschi, ovviamente, e invece il nuovo avanzante fronte della flessibilità procrescita, alla cui testa c'è il presidente del Consiglio Renzi, forte del suo 40,8% alle elezioni europee, che ha reso il PD il più forte partito della famiglia socialista europea, in un'elezione in cui pure i popolari hanno avuto un risultato complessivamente migliore al Parlamento europeo. Allora, in attesa delle conclusioni tra poche ore e delle conferenze stampa, tra cui quella di Renzi, sulle conclusioni di questo vertice, per capire se davvero la svolta c'è oppure se, ancora una volta, questa è la mia modestissima opinione, l'informazione sta suonando, diciamo, con qualche travolgente enfasi di troppo per vendere copio e tenervi in ascolto, su guerre ogni volta che sono un po' diverse dalla realtà e molto gonfiate, abbiamo deciso da una parte di chiedere a voi come la pensate. C'è davvero questa svolta adesso, fine del rigore, e quindi tutto procrescita, avremo le spese per investimenti fuori dai limiti del deficit pubblico, avremo le quote di cofinanziamento dei progetti europei, che è già un'altra cosa, fuori dai tetti del deficit pubblico, avremo, alcuni hanno ritirato fuori dall'arsenale la vecchia idea degli eurobond, a cui non credo affatto, e così via. Vi aspettate tutto questo? Ecco, io non me lo aspetto, ve lo dico subito. Trovo molto singolare, mi sono fatto qualche sorrisino stamattina nel vedere molti autorevolissimi colleghi su grandi giornali italiani fare degli editoriali in cui si presentava il confronto nei tête a tête a quattro occhi tra Renzi e la Merkel, avvenuto ieri, avvenuti stamattina. E il punto di fondo negli editoriali era se nel testo preparato da Van Rompuy, il coordinatore del Consiglio europeo, in scadenza anch'esso, in una frase si diceva che bisogna fare un miglior uso delle forme di flessibilità previste nel patto di stabilità e di crescita, e questo miglior uso era diventato un buon uso, perché ai tedeschi non piaceva il miglior uso, che significava incremento della flessibilità. Allora, io trovo che se veramente poi si può vendere per grandi svolte storiche la differenza tra l'aggettivo migliore e l'aggettivo buon, credo che stiamo un po' prendendo per i fondelli i nostri ascoltatori e i nostri lettori. Ma magari mi sbaglio, e siccome può essere benissimo che io mi sbagli, abbiamo chiamato un osservatore che ha capacità tecniche per quello che fa nella vita, e anche, diciamo, per quello che ha scelto nella vita, essendo una italiana che insegna politica fiscale all'Università di Francoforte, quindi in Germania, diciamo, ha gli strumenti non solo tecnici ma anche culturali, antropologici, per essere a cavallo tra mondo italico e mondo germanico, per aiutarci a capire se davvero c'è questo grande scontro, ci sarà un vittorioso netto tra poche ore, o se invece si tratta semplicemente di spiegare, per quanto sia noioso, che è vero che il patto di stabilità e di crescita ha delle forme di flessibilità al suo interno, che non è vero quello che vi hanno raccontato in campagna elettorale, cioè che il fiscal compact significa per l'Italia manovre dei 50 miliardi aggiuntivi ogni anno, perché il fiscal compact, cioè il two pack e il six pack, prevedono di interpretare sia l'andamento degli ultimi anni di leggi finanziarie, l'andamento della finanza pubblica alle spalle, sia quelli effetto delle ultime leggi finanziarie, che è vero che c'è la flessibilità, se no non si spiegherebbe come mai in 15 anni da che c'è l'euro la Francia è andata per 9 anni sopra il 3%, eppure non è stata piegata in due dalle sanzioni. Quindi la flessibilità c'è di fatto, il problema certo sono i criteri con cui si usa. Comunque, l'ospite è la professoressa Esther Faia, che io ringrazio di essere con noi collegata dalla Germania. Buon pomeriggio, professoressa. Buongiorno, grazie a voi. Allora, lei come la pensa? Che cosa si aspetta di qui a qualche ora alla fine del Consiglio europeo? Diciamo che in gran linea mi sembra che l'analisi che ha tracciato è quella corretta. Tenga conto che va, prima di tutto depuriamo dal fatto che ci sono molte dichiarazioni tipo politico, cioè la stessa Merkel deve, così come Schäuble, devono accontentare i propri elettori. Ed è anche vero che il fiscal compact è in teoria, diciamo, viene richiamato come una regola stretta perché così la Merkel tranquillizza i suoi elettori, ma di fatto ha sempre avuto grande flessibilità nel tempo. Ce l'ha scritta la flessibilità, nel senso che, come sappiamo, il criterio del 3% va aggiustato per il ciclo. Poi ovviamente sul ciclo si può discutere, perché ogni paese, così come avviene all'interno dei lender tedeschi, che hanno anche loro un patto di stabilità, il lender può sempre dire che ha avuto un ciclo molto peggiore di quello che ci si aspettava all'inizio, che quindi il patto di stabilità va rimodulato. Credo che quello, quando si parla, diciamo, di grandi manovre, riguardano soprattutto i paesi come l'Italia, che devono fare un grosso aggiustamento dello stock di debito, cioè in teoria ci dovrebbe essere un rientro sull'arco di 20 anni, poi eventualmente allungabile, eccetera. Questo rientro all'interno del tetto dello stock di debito prevede che ogni anno una parte del debito vada abbattuta. E quindi le manovre devono essere tali per cui la parte di debito viene abbattuta. Cioè il deficit di per sé è flessibile, non solo, ma aggiungo una cosa, cioè sappiamo anche il mito della super rigorosa Germania, perché la Germania stessa immediatamente parla di flessibilità quando lei stessa la vuole utilizzare. Io non vedo anche un parallelo col fatto che, per esempio, la survey di qualche giorno fa dell'IFO parlava di aspettative di recessione da parte degli imprenditori. In quel momento immediatamente la Merkel dice: va bene, ma in fondo possiamo utilizzare il patto di stabilità in modo flessibile, perché comunque loro sono bravissimi a spiegare agli altri come si fanno le regole, ma ovviamente nel 2003 anche loro le hanno violate. Però ripeto, credo che la questione fondamentale, anche se non è chiaramente discussa, è come si abbatte la parte fondamentale dello stock del debito, che per l'Italia è molto alta, è quella la manovra di aggiustamento forte. Ora, per chi è in ascolto, dai conti che abbiamo per gli andamenti del debito pubblico italiano, anche in questo anno sta crescendo più dell'anno scorso, quindi siamo a quasi 80 miliardi in più dall'inizio dell'anno. Entro la fine di questo 2014, come valore complessivo, non come percentuale sul PIL, la nostra è molto più elevata da sempre, il debito pubblico sul PIL, di quello tedesco, ma in valore complessivo il debito pubblico italiano supererà anche quello tedesco, a circa 2,15 trilioni di euro ammonterà a fine anno, e quindi lo dibattiamo anche in termini di valore. Più volte abbiamo spiegato durante la campagna elettorale europea che per un rientro nei prossimi 20 anni di un ventesimo della parte eccedente del 60% di debito pubblico sul PIL, questo sarebbe, insomma, diciamo in termini non troppo tecnici, il fiscal compact, una questione fondamentale è di quanto cresce il PIL naturalmente di ogni anno, cioè se più il denominatore va meglio, il PIL, visto che è una frazione che conta il rapporto al debito PIL, e più c'è un raggiustamento automatico. Naturalmente nella crescita c'è una componente reale, quella dell'Italia è piantata verso 0, ricordo a tutti che Confindustria ieri, secondo me credibilmente, ha abbattuto la tesi di crescita del 2014 a un modestissimo più 0,2%, e c'è poi una componente nominale, diciamo l'inflazione, e anche quella, diciamo, nell'euroarea è molto al di sotto dell'obiettivo target della BCE del 2%, quindi la crescita del PIL in Italia non ci aiuta né in termini reali, quella degli altri paesi europei è più alta, né in termini nominali, e questo è un problema generale dell'euroarea, la bassa componente nominale della crescita dei prezzi. La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:47, primi 30 secondi, in attesa delle conclusioni del Consiglio europeo, svolta non svolta nell'interpretazione del patto di stabilità e di crescita europeo. Renzi sui giornali italiani appare come il capofila del fronte, diciamo, socialista e dei paesi eurodeboli, che chiede alla signora Merkel e ai paesi ortodossi di cambiare i criteri di applicazione del patto di stabilità. Più crescita, più attenzione a chi ha perso di più come l'Italia e di chi come l'Italia riparte ma da punti molto più bassi. Ricordo a chi ci ascolta che noi in termini di PIL pro capite siamo tornati a prezzi correnti a quelli del 1996, in termini di produzione industriale siamo tornati, avendo perso 27,8 punti di produzione industriale, a quella del, incredibile a dirsi, 1986, e in quanto a investimenti siamo tornati indietro al livello del 1994, quindi partiamo da molto più basso rispetto alla Germania, che va molto bene. La Germania quest'anno è quasi un 2% di crescita attesa, e noi abbiamo visto che siamo a più 0,2% se le cose continuano ad andare come sono andate male nel primo trimestre. Professoressa Faia, da questo punto di vista c'è anche un altro problema. C'è chi dice che essendo andata la politica monetaria della BCE, e malgrado la forza che ha nel Consiglio, nel board della BCE, il punto di vista della Bundesbank, e malgrado lo statuto che nasce, lo statuto della BCE, fortissimamente condizionato dalla storia europea, dall'alta inflazione e così via, quindi è molto diverso da quello della Fed. Però c'è chi dice che se anche la BCE è arrivata con Draghi poche settimane fa ad avventurarsi nella terra fuori dalle carte geografiche, mai sperimentata prima, di un tasso di interesse negativo sul ridepositi da parte delle banche alla banca centrale, e nel secondo e terzo stadio della nuova strategia promessa, cioè quella di un nuovo elettorato, nuovi prestiti a basso tasso di interesse, bassa qualità del collaterale, questa volta direttamente finalizzati ai prestiti alle imprese, e poi terzo stadio, quello di rivitalizzare le asset-backed securities, quindi consentire di rilevare grandi pacchetti di prestiti incagliati tra banche e imprese. Ecco, si dice, se la politica monetaria si è arrivata a spingere in queste terre inesplorate, forse anche le politiche di bilancio dovrebbero tenere conto che la realtà di questa dell'eurocrisi ci obbliga a delle frontiere nuove. Lei che pensa di fronte a questa correlazione? Guardi, non lo so, da un lato io mi fiderei fortemente dell'intuito di Draghi, perché è chiaramente una persona che ha fatto molto bene in molte occasioni. Io ho la sensazione che lui abbia fatto questo tipo di sperimentazioni più che altro per questa idea della forward guidance, cioè questa idea di poter dare un impulso alle aspettative. Personalmente dubito che d'impatto questo abbassamento dei tassi così forte abbia una come effetto di stimolare il credito, per due ragioni: perché di fatto il credito, se lei parla con i banchieri, soprattutto magari in Italia o anche in altri posti, sono disperati, perché loro non danno credito, perché le imprese non lo chiedono. Quando la domanda non c'è, quando il tasso di crescita del PIL è basso, semplicemente non si vende, quindi gli imprenditori non hanno interesse a prendere credito perché non si può vendere, quindi non c'è interesse a produrre. Quindi quando i tassi sono così bassi, i banchieri sono disperati perché sono alla ricerca di diciamo possibilità di investire in portafogli alternativi. Quindi non credo che i tassi così bassi stimolino il credito attraverso il canale che, essendoci più liquidità nel loro portafoglio, le banche danno più liquidità. Le banche non la danno perché la liquidità non viene chiesta dalle imprese. È una classica trappola della liquidità, quindi secondo me non avrà questo effetto. Ci sarà probabilmente un effetto sulle aspettative, quindi ritorniamo al solito collo di bottiglia, cioè che cos'è che bisogna far ripartire perché questa liquidità, che poi diciamo si vuol far andare nel sistema, il sistema la voglia utilizzare. Quello che bisogna far ripartire è una politica industriale, un processo innovativo. La crescita è fatta degli imprenditori coraggiosi, di quelli che si inventano le cose nuove, di quelli che hanno la possibilità di vendere, oltre al fatto che ci sia un sistema sano in cui cui la gente abbia i soldi per spendere. Ora, la mia sensazione, guardandola dall'esterno, pagando le tasse all'esterno, è che in Italia la gente è massacrata dalle tasse, cioè c'è un pessimismo fondamentale che deriva dal massacro delle tasse. Massacro delle tasse che si concretizza in un, diciamo, quasi una persecuzione psicologica, perché in Italia quasi ogni 15 giorni la gente deve pagare le tasse, soprattutto se sono imprenditori. E poi da leggende del tipo, non so, le tasse sugli immobili ci sono anche all'estero, sì, in minima parte, non come quelle che ci sono in Italia. Noi abbiamo abbassato le tasse sugli imprenditori, ma di fatto, avendogli alzato l'IMU, probabilmente gli imprenditori andranno a pagare la stessa cosa. C'è una sorta di persecuzione, e perché avviene questo? Perché alla fine mi sembra che anche il governo Renzi, con tutta la mia simpatia, perché è un governo giovane, è un governo di donne, eccetera eccetera, non taglia la spesa in modo radicale. Quindi finché tutto ritorna al dover tagliare la spesa e quindi dover diciamo riorientare le risorse verso qualcosa di più dinamico, questo per qualche ragione in Italia non si riesce a fare, tutti rimangono incagliati lì. Musica per le mie modestissime orecchie. Ricordo a tutti che da lunedì entra in vigore la nuova aliquota del 26% sul risparmio. Come abbiamo spiegato più volte da questi microfoni, è un aumento di imposta regressivo, quindi la sinistra mi stupisce molto che faccia aumenti di imposta regressivi. Io sarei favorevole a un'aliquota unica neutra su tutti i tipi di reddito, senza distinguere quelli da lavoro e da capitale, tutto in IRPEF, come si fa nella stragrande maggioranza dei paesi. Noi invece col 26% agevoliamo il vantaggio per i titoli di Stato, quindi per lo Stato che resta a 12, colpiamo i redditi in maniera regressiva, escludiamo i cosiddetti lordisti, cioè le imprese e le banche, che non sono interessati da questa nuova disciplina, e massacriamo ancora di più i risparmiatori. Questo per ricordarvi, da lunedì vi tocca questo, e per chi è in ascolto sappiate che dovevate pensare a differenziare per tipo di prodotto e per tipo di scadenza, potevate liquidare, dovevate fare un conto complesso, spero che i più non facciano il risparmio fai da te, perché altrimenti regalate soldi allo Stato che forse in qualche misura potevate un po' risparmiare. Sentiamo una telefonata, Alessandra da Milano. Prego, Alessandra. Buongiorno. Senta, io volevo dire, ma insomma, questa Europa deve concedere all'Italia quella flessibilità nel patto di stabilità che consente di cambiare un po' le cose in maniera radicale, perché riforme strutturali profonde eccetera costano in qualche maniera, no? E certo poi porteranno a grandi risparmi successivamente. Se non ce lo fanno fare, poi dopo continuano a lamentarsi che noi abbiamo degli sprechi. Chiarissimo, Alessandra, questa che lei avanza è una delle richieste che più abbiamo letto sui giornali italiani, sia pur non in un documento formale. Il governo non ci ha dato un documento formale per il semestre fino a questo momento. Però quello che lei dice, cioè computare agli effetti del patto di stabilità gli effetti a breve di riforme che quanto più impegnative sono possono avere anche un costo o un minor gettito ai fini del saldo pubblico, ma va valutato, senza stare a fare troppo i rigorosi, quanto questo serve a diminuire il gap tra output potenziale e prodotto reale, cioè a crescere di più nel breve. Che dice su questo la professoressa Esterfaia? Abbiamo fatto delle riforme col governo Monti che dovevano aumentare, ridurre la disoccupazione, invece l'hanno aumentata, quindi non è chiaro come si possa misurare questa cosa. Cioè, ripeto, c'è un problema di abbattimento del debito. Ora, uno può anche dire, magari più gli danno flessibilità, più se lo mangiano loro questa flessibilità, non è chiaro che la ridanno ai cittadini. Ci vuole un sistema di incentivi per ridarla ai cittadini questi soldi, non che se li mangino di nuovo loro. Poi c'è la questione dell'abbattimento del debito, come la devi fare? Voglio dire, Oscar Giannini aveva proposto all'epoca che se la paghi lo Stato l'abbattimento del sì. debito, ecco, quindi non mi pare molto popolare, però devono continuare a pagarla ai cittadini. E poi devono, cioè voglio dire, l'ultima questione, questa diciamo moda adesso della tassazione sul risparmio che c'è in Italia, per tutto non è vero necessariamente che è progressiva. L'Italia è un paese non progressivo perché gli scaglioni dell'IRPEF sono 4 contro i 9 della Germania, questo è il problema della progressività. Tassare il risparmio è un disastro, perché dovete pensare che è la quarta volta che un reddito viene tassato, cioè quando uno guadagna un euro viene tassato come IRPEF, poi consuma, viene tassato come consumo, Poi questa povera persona tenta di risparmiarlo, magari comprando una casa gli viene tassato, o facendo altri tipi di investimento, gli viene tassato all'inizio e poi gli viene tassato ogni anno. Quindi vuol dire tassare 3 o 4 volte quell'euro che è stato fatto all'inizio. Scoraggiare il risparmio è pessimo in un paese come l'Italia, perché siccome le persone non hanno dei safety net dal governo, cioè non hanno delle reti di protezione dal governo, l'unico modo in cui si possono creare delle reti di protezione è tramite il risparmio privato. Se lo uccidono, sostanzialmente mandano la gente in povertà. Allora, la mia conclusione è: la voglio prima di morire almeno candidata a ministro, ma non le voglio fare del male, quindi la professoressa Fai, andando in Germania, secondo me ha scelto bene, oltre che per la felicità della sua vita privata. Detto questo, pensateci bene tra qualche ora, quando vi venderanno qualche svolta, tentate di capire se ci sono cose concrete o se è fuffa politica. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì.